dei falsi allarmi rispetto alla riapertura con affidamento, per esempio, al Cineclub Kino. E volevo sapere in tutto questo quale sarà il rapporto col comitato di quartiere, per l'appunto, che ha svolto questa battaglia C'è, all'interno. come dire, molto buono e anche molto di indicazione, no? Nel senso che loro vogliono intervenirci anche forse pesantemente, se vuoi, ma ragionevolmente, nel tipo di gestione di presenza del cinema dentro il quartiere, no? Vogliono verificare, vogliono fare loro delle proposte. Ci sono molte associazioni che gestiranno degli spazi, no? Che riguardano il cinema, ma anche con la possibilità del cinema come punto di incontro, con il momento di formazione, che, come dire, permettono da una parte al cinema di svolgere la sua funzione primaria, che è quella di un cinema di quartiere, di un quartiere dove non ci sono sale, qui sono tre schermi e cerchiamo di usarli bene. E dall'altra parte, il fatto che comunque il cinema Aquila non è solo il cinema Aquila, per storia proprio, è, come dire, un cinema che è di passaggio anche di festival internazionali, di festival italiani, nella città, no? Tiene in piedi questa doppia struttura, per cui è, come dire, molto independent, però fa anche un cinema in cui gli anziani del quartiere, per esempio, possono andare senza essere puniti dalle mie scelte o dalle scelte che si nei film di qualcun altro, no? Per dire. È un'idea come dire, di cinema vivo, no? Io sono convinto, sai, parla molto di critica del cinema, sono convinto che delle strutture piccole, no? Insomma, possono vivere, sono capaci di stare vicino alle persone e alle loro esigenze, no? Ci sono molte persone che non riescono ad andare al cinema perché non hanno neanche il tempo di andarci, no? Non hanno il modo. E se noi facciamo un cinema che apre alle 10 del mattino, forse magari, che ne so, gli studenti ci possono andare, i pensionati ci possono andare, qualcuno che fa i turni, per esempio, può andare al mattino al cinema. Cioè, nel senso che bisogna pensare al cinema come un luogo dove avvengono tante cose, e il film è una di queste cose, sostanzialmente. Poi a me personalmente mi interessa il film, ecco, però bisogna essere molto aperti a come è cambiata la vita delle persone, no? Il cinema anche può fare questo esperimento. Io dico che è un cinema che potrebbe diventare anche sperimentale, no? Cioè capire perché, per esempio, a cosa gli serve un cinema, no? E quindi, come dire, c'è un buon rapporto con il quartiere, devo dire che è un quartiere molto particolare. Credo che sarà proficuo. Ecco, proprio sotto questo profilo, Mimmo, il 25, la riapertura e con quali modalità di programmazione? Guarda, abbiamo programmato tutte le tre sale, dalle 6 fino a sera, all'entrata libera, dove nelle sale sarà proiettato un'opera prima, nella sala grande lì alle 9, gli altri sono dei cortometraggi. Dall'altra parte è un altro film, quindi voglio dire, in un'idea di servizio proprio, no? Cioè, c'è la possibilità di stare tante ore al cinema, verso un bicchiere magari, festeggiare che si riapre il cinema, ma come dire, di andare in sala, cominciare ad aprire le porte e dire, questo è un posto dove si va nelle sale, veniteci, ed è molto. Una scelta molto, come dire, di festa, ma di festa di cinema, non so come. Senti Mimmo, ci sono già spazi web di riferimento per la programmazione, per le attività? Guarda, da oggi cominciamo veramente tutto il lavoro, perché stiamo andando di corsa per arrivare a questa apertura, con tutta una serie, anche lì la burocrazia molte volte ci gioca contro nella vita. No, c'è gente che non ha tempo di aspettare, no? E il quartiere soprattutto lo voleva aprire più fretta possibile. E quindi stiamo correndo a questa apertura qui, ma è questione veramente di ore. Stiamo programmando tutto bene in modo che le persone possono essere informate come si deve, perché è un altro dei grandi problemi, no? nel momento, cioè bisogna essere bravi, avere un rapporto con i social media, come si chiamano, insomma, quelle persone li usano a loro favore, no? Troppe volte sono contro di loro, anche lì bisognerebbe pensare che, ne so, che noi non abbiamo preclusioni con chi si guarda un film sull'iPad, no? Sì. Assolutamente, però magari qualche volta cerchiamo di entrarci in collegamento, no? Magari si sta in collegamento con noi al cinema, magari si mette in collegamento, qualche volta viene al cinema e poi ritorna sul suo iPad, no? Cioè, credo che bisogna essere in questo momento, io lo sono, no? Ma non sono così, però normalmente, senza farne delle grandi teorie, non bisogna stare nella realtà, la realtà è fatta anche di tutto questo, e bisogna stare lì a guardarla. Guarda, ieri dicevo che ci sono due cose di questo cinema che vorrei che esistessero, due parole d'ordine. Una si chiama ascolto, cioè il cinema come luogo d'ascolto della società, del mondo e della vita delle persone, no? Sì. Quindi, come dire, un'occasione. I film si guardano, ma si bisogna ascoltare quello che c'è dentro i film per cominciare a capire quello che succede intorno a noi. Quindi è una funzione molto sociale quello del cinema in questo momento. Sì. E l'altro, un'altra parola che è libero, cioè stare senza preconcetti, no? Cioè stare, come dire, liberamente a guardare le immagini, a vedere che cosa ci viene proposto e cercare di riproporlo, insomma, abbastanza fuori dai meccanismi, sì, un po'. Siamo tutti in cui tutti siamo incasellati, di luoghi comuni anche, no? Voglio sì, dire. Sì. Quindi la mia idea è che un cinema dove appunto ogni persona si mette liberamente a guardare qualcosa, può giudicarla, può decidere se gli piace, che non gli piace, che funziona, che non funziona. Però in una condizione di ascolto, cioè che c'ha voglia di vedere quello che succede. Sì. Perché troppe volte invece, sai, il mio, perché io parto sempre da me, cioè il mio rapporto col mondo è sempre quello di correre dietro a qualcosa, no? E non fermarmi mai a guardare che sta succedendo intorno a me, e poi mi obbligo a farlo per mestiere, per cose eccetera, ma veramente questo mondo ogni tanto mi piacerebbe vederlo più in ascolto, sai? Quindi la tua radio va bene, capito? Perché la radio obbliga queste cose, no? Ti obbliga all'ascolto. Senti Mimmo, in chiusura, considerato anche che siamo alle soglie dell'estate, le attività comunque proseguiranno anche in periodo... Sì, ci stiamo studiando e lavorando, perché non abbiamo uno spazio esterno che sarebbe meraviglioso, però cerchiamo di andare avanti il più possibile, però ecco, diciamo sinceramente, settembre è la grande prova di... proprio, come dire, di una grande sfida. La mia idea adesso è di fare tante cose diverse che avvicinino persone diverse. Ad agosto bisogna trovare una soluzione, perché l'ideale, guarda, la mia ideale sarebbe che il prossimo anno intorno al Pinero si crei una grande isola di cinema, in cui la gente, oltre ad andare a bere dentro il quartiere, in tutta quella parte che si muove lì, sei nell'isola, no? Avesse la possibilità che andasse a vedere un film d'estate. Secondo me sarebbe il massimo. Allora, ricordiamo la riapertura del Cinema Aquila a Roma a partire dal prossimo 25 maggio con la direzione artistica di Mimmo Calopresti. Mimmo, è un piacere ogni volta e ci sentiamo presto le novità. Seguici, dai, comunque il cinema, vieni anche a fare, come dire, fai una diretta al cinema una volta, fai... Dai, sì, con i film, sarebbe bello, no? Organizziamo qualcosa, va benissimo. Va bene. Un abbraccio, ciao Mimmo. Un abbraccio, ciao. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.